Quindi, se volete la verità, andate dentro voi stessi, amici, perché quello è l'unico posto dove troverete mai la verità vera. Da noi non potrete ottenere mai la verità. Vi diremo tutto quello che volete sentire mentendo senza vergogna. Noi vi diremo qualsiasi cazzata vogliate sentire. 24 mattino. L'Italia si desta. Di Alessandro Milan. Attaccare! Ma devi girarlo forte. Attaccare! Più forte? Non più forte. Più forte, perché attaccare. È nello stadio. Attaccare! Ma dai, state a vedere. Attaccare! A questo punto la notizia è ufficiale, la frittata è fatta. Allegramente col consenso generale la frittata è fatta. Tra guastatori e giudici d'assalto, tra sceneggiate e giudici d'ascolto, praticamente la frittata è fatta. Vai, Sam. Oggi Renzi uccide la scuola pubblica. Il nostro dolore è il dolore del mondo della scuola. In un momento non te ne sei reso conto, la frittata è fatta. Tra concorrenti, ballerine e mostri, autorità e consigli per gli acquisti, praticamente la frittata è fatta. Vai, Sam. Fiducia a questo governo non la daremo mai e non la voteremo mai, perché la Lega vota contro a questo provvedimento. Questo provvedimento non è altro che la vaselina che voi state dando agli studenti e ai professori italiani. Questa è la vaselina della buona scuola. Mettetela a bilancio dello Stato italiano e datelo a ogni professore. Questo è quello che subiranno gli insegnanti. C'è da dire che il leghista Centinaio, secondo me, quando parlava di vaselina ed era lì lì a dire mettetela, dov'è che ha detto gli studenti, però dai, è chiaro che aveva in mente qualcos'altro, no? Sulla vaselina per la buona scuola. Però, nonostante le risse fuori dal Senato, bisognava mantenere un contegno delle istituzioni, quindi a Palazzo Madama non si dicono certe cose, la vaselina. Mettetela. La buona scuola! È stata approvata al Senato ed era, come dire, lo scoglio maggiore per i numeri. Pare che Renzi abbia detto, beh, ormai il peggio è alle spalle per quel che riguarda la buona scuola, e i professori capiranno, gli insegnanti. Ciao! Praticamente la frittata è fatta. E vabbè, poi ci sono le solite note negative, la rissa con l'Unione Europea, l'immigrazione, eccetera. Vabbè, ma cose di cui parleremo, avremo ospite anche Luca Zaia oggi alle 8.15, governatore del Veneto. Parleremo di queste cose, di Renzi che pare, diciamo, io ho pianto per il muro di Berlino, ma questa Europa proprio non la riconosco più. Ma solite questione dei migranti, eh? Ma non pensiamo subito in negativo, pensiamo che è venerdì! Attaccare! È venerdì! Attaccare! E allora, bene sì ragazzi, Berlusconi ci deve dare un po' di soldi a sto punto, perché no, ci accontentiamo di un 10.000 euro, 20.000, un giocatore, attaccare, per attaccare bisogna comprare qualcuno, però Silvio Berlusconi, lo dico da milanista, Ma la Gazzetta dice che abbiamo preso Bertolacci, così dicono, ma non sarà vero, io finché non vedo la firma, e ormai 10 firme non credo più a nulla. Allora, è venerdì, si chiude la 112esima settimana decisiva per l'abolizione delle province, signori, e qui c'è a 24 mattino non solo Lorenzo Nespo in redazione, come al solito, non solo Peter Bescapè, come sempre il nostro alpino in regia, ma oggi abbiamo la guest star Valerio Rocchetti in regia, e allora doppia regia, ma straordinario. Ci siamo tutti? Possiamo che fare? Aprire il Parlamento a questo punto? E apriamo. Il Parlamento che ieri ha visto combattere. Adesso vado a prendere un caffè, quindi semmai ci vediamo più tardi. Grazie. Parlamento, forza, forza. Sono momenti di battaglia vera. Si parla anche di vaselina al Senato, cose veramente grosse, eh? Allora, intanto voglio salutare un graditissimo ritorno qui al Parlamento, c'è cioè il vice direttore di Panorama, Maurizio Tortorella. Eccoci qua, Maurizio. Ciao Alessandro, buongiorno a tutti. Buongiorno, buongiorno, come va? Tutto come a posto? Va, si litiga, si questiona. Caro Maurizio, ti devo presentare la quasi... Che dice? Di quella lista, ragazzi. Mettetela la vaselina, datela agli insegnanti, ecco, così è. Vabbè, si capiva abbastanza dove voleva arrivare. Ti presento la quasi direttrice dell'Unità. Buongiorno. È già ride. Ma Chiara Geloni, ma Chiaretta, ma ho saputo che l'Unità esce, ma scusa, il 30 giugno. Il 30 giugno è tra tre giorni, perché nessuno ne parla che sei la direttrice? Ma guarda, non lo so. No, perché non hai visto? No, ci sono grandi novità. È cambiato il direttore. No, cioè non è più Illich. Non è più Illich. No, io però. Maurizio, attenzione, perché Chiara Geloni ci ha detto che Vladimiro Frulletti, che era il direttore designato, in realtà si chiama Vladimiro Illich Frulletti, perché giustamente all'Unità... È una scelta di linea, insomma. E perché? Che è successo? E invece Erasmo. Erasmo da Rotterdam? No, da Firenze ovviamente, perché nel PD oggi come oggi tu capisci. Ah, se non sei di Firenze sei spacciato. Erasmo chi? Erasmo D'Angelis. Erasmo D'Angelis. Sì. Ma scusa, Erasmo D'Angelis, ma è un giornalista che ha fatto anche poi il sottosegretario, è quello? Sì. Il suo mestiere era sottosegretario alla presidenza del Consiglio, insomma aveva una delega per la tutela del... No, ma fammi capire, sì. Del territorio. Sì, ma fammi capire, Erasmo D'Angelis è sempre stato, pur facendo il politico, prestato alla politica, un giornalista. Che fa? Adesso torna a fare il giornalista, il direttore, quindi ha fatto un po' il sottosegretario di Renzi e adesso fa il direttore dell'Unità. Sì. Hai capito, Maurizio? E ci sarà anche Vladimiro con un incarico più di direttore operativo, insomma... Illich, coordinatore della redazione, eccetera. Vladimir Illich Giuliano. Esatto. Hai capito, Maurizio Tortorella, come cioè Erasmo D'Angelis, ma tu lo sapevi, ha fatto il sottosegretario per un po' e adesso è tornato a fare torna a fare il giornalista, direttore dell'Unità. Sono cose... Non è vietato dalla legge. No, per carità, non è vietato dalla legge, assolutamente no. Vabbè, dai, sono le 6:36 minuti. Allora, che cosa vi ha colpito di questa cosa della scuola, la buona scuola? Adesso ovviamente nessuno sa di che cosa consta poi la riforma, perché sì, i giornali un po' la spiegano. Quello che è passato come messaggio, i messaggi sono due. A, se c'è il provvedimento approvato della buona scuola, si assumono gli insegnanti, se no no. E questo forse non è proprio così. E B, avete messo la fiducia, siete dei fascisti. Questo, Maurizio Tortorella, un po' in sintesi è quello che è passato. Sì, devo dire che è proprio l'esplosione dello sloganismo fine a se stesso. Ovunque tu ascolti, ma con chiunque tu parli, senti parlare di gente che non sa assolutamente nulla e che si affida a slogan apparentemente vuoti. Sì. Per quello che a me è dato capire, per quel poco che mi è dato capire, non perché non sia... Dici, perché anche tu non l'hai letta, diciamo. No, perché obiettivamente c'è una gran confusione. Ora poi andrò a leggermi il testo, ma io ho limitate capacità comprensive, questo è il problema. Va bene, l'importante è dirlo. Sono alcune cose, come sempre in questi casi, positive, altre negative. Positive, a me sembrano, per esempio, che c'è la valutazione da parte dei dirigenti scolastici, sì. E io la trovo una cosa positiva. Ma non dirlo, altrettanto positiva. Guarda, cari insegnanti, Maurizio Tortorella, potete scrivere al 349-238-6666 che pensate di Maurizio Tortorella. Ma scrivete tutto il peggio che volete. Io mi sono sempre assunto le mie responsabilità delle cose che penso. No, un'altra cosa positiva, a me pare che è stato sempre il grande errore della scuola italiana, è il migliorato rapporto con le imprese. Il fatto che si prevedano stagi in azienda si può prevedere di più, non lo so, ma infatti non lo so. Tu, Chiaretta Geloni, che ne pensi? Hai visto? Ti è piaciuto il metodo duro? Guarda, puoi immaginare certo, il mio entusiasmo. Figurarsi. Mi è piaciuto soprattutto perché il Presidente del Consiglio aveva detto, dopo il voto dei ballottaggi, In TV, anche alla direzione del PD, ma quello si sa che è meno importante, ma anche in TV aveva detto che ci avrebbe ripensato a questa riforma, che si era reso conto di doverlo fare, che avrebbe anche convocato tutto il mondo della scuola per una giornata di stati generali, di studio della realtà, per scuola. Concordare una nuova strada. Dopo una settimana Renzi 2 ha smentito Renzi 1 e il Senato si è visto imporre un nuovo voto di fiducia, siamo circa pare al 40esimo, proprio cifra tonda, in un anno, parlo solo del Senato, e poi c'è anche la Camera, dove ce ne sono stati altrettanti. Vabbè, non ti piace non ti piace questo metodo? No, guarda, della giornata di ieri io ho trovato particolarmente incredibili due cose. Una è ormai purtroppo un classico, ma a me non manca mai di stupirmi, vedere i senatori parlamentari mascherati coi cartelli, coi lumini, cioè io non so se questi si rendono conto dell'effetto che fanno visti da casa del telegiornale, dove veramente sembra di vedere il circo, e non credo che questo giovi alle ragioni di nessuno. È un po' un'altra così. Altra cosa è il ministro Giannini, che ha passato giornate intere in aula per la riforma della scuola, lei è ministro della scuola, senza prendere mai la parola, senza rispondere mai a una domanda. È stata un po' così, dicono i giornali, un po' silenziata. Una ragione a favore della Palazzo Chigi. Intanto però Gianni ci scrive, grazie per aver portato la bella Chiara in trasmissione, finisco bene la settimana e starei a guardarla ed ascoltarla per ore. Certo, guardarla in radio è un po' difficile, Chiara Geloni, però va bene così, insomma, si può anche stare ad ascoltare. È pieno di fantasia, è dotato di fantasia questo Gianni. Ha anche una bella voce, dai. Ma certo, appunto, infatti, che bello guardarla e stare a guardarla. Canto qualcosa. Dai, se vuoi cantare, cosa vuoi cantare? C'hai una voce bellissima, che ci vuoi cantare? Dai. La prossima volta ci penso. Adesso non ci puoi fare rimanere così. Dai, senza intona la base, come diceva Iannacci. Ma la base, lo so, se vuoi, se dici qual è il tuo pezzo forte, magari qua. A quest'ora non mi viene in mente. Tu comincia a dirlo, intanto noi ci prepariamo. Ok. Su cosa vai più? Mina? Mina, adesso cominciamo da una cosa facile. Non lo so, Gianna Nannini. Non ci devo pensare, dai, te lo dico dopo. Ma dai, ma lanci il sasso e poi dopo. Hai ragione, dovevo. Non dovevi. C'è chi ci chiede se vuol mettere la parola attaccare da Berlusconi come suoneria. Faccia pure. Attaccare! La voglio mettere sul telefonino. Che ne dici? E mi chiedono un parere. Che ne dici, Tortorella? Un parere da Maurizio Tortorella. La metteresti sul telefonino questa bella suoneria? Attaccare! No. Poi mi viene un colpo tutte le volte che la sento, no? Verrai licenziato da Panorama. Meglio la voce di Chiara, meglio la voce di Chiara. Verrai licenziato da Panorama dopo questa presa di distanza netta nei confronti di Silvio Berlusconi. Non metterai la suoneria così. Intanto c'è la questione dei migranti che rimane, e la questione dei clandestini, la questione di... Che dobbiamo fare? È così. Facciamo un passo in avanti e quattro indietro. Renzi all'Europa ce l'ha con i paesi dell'est Europa, non ho capito bene perché sono quelli che più ostracizzano la redistribuzione. E poi ha detto questa frase: io ho pianto per il muro di Berlino che è caduto. Quella è l'Europa, non questa Europa qui che ci volta le spalle e rimette i muri, peraltro. La questione è questa, Maurizio, secondo te fa la voce grossa abbastanza in Europa, oppure come dicono i leghisti no, o invece sono i leghisti che esagerano a dire... Ma guarda, tre mesi fa, quando ci fu la conferenza straordinaria europea sul problema dei migranti, lui ne uscì dicendo che era stato fatto un passo avanti clamoroso. Sì, sì. Ed è un continuo andare avanti in tre. Così c'è il piano B, però sì, ma ogni volta c'è Renzi 1 e Renzi 2. No, ma poi che è il piano B? Cioè, tu l'hai capito il piano B? Non lo so, il piano B non se ne è più parlato del piano B. Non se ne è più parlato del piano B. Cioè, se l'Europa non ci aiuta, abbiamo il piano B. Siamo da soli, abbiamo un piano B. Del Rio a Panorama, in edicola da ieri, dice. Che è legittimo sparare sugli scafisti. No, ma anche, per su, carità, sugli scafisti, immagino con gli scafi vuoti, però. Esattamente, a scafo vuoto. Speriamo. È un po' complicato. No, come speriamo, dai? No, adesso te lo vedi uno del Rio che ha 9 figli, così pacato, che va a sparare. Sì, però è testuale, voglio dire, andatevela a leggere, fa impressione. Mi pare che abbiano una confusione totale in testa. Ed è evidente che comunque senza un intervento, che ovviamente non deve essere militare, ma comunque sulla fonte di partenza del problema, e cioè sull'Africa nella sua diversa latitudine, il problema non si risolve, perché la pressione migratoria è crescente, è sconvolgentemente elevata, e quindi sto dicendo banalità, non è che puoi mettere un cancello o fare altro. No, ma è chiaro, neanche i muri, o neanche la situazione è come dire. Poi adesso ne parleremo anche con Luca Zaia alle 8:15, che dice anche dire i prefetti si ribellino. Ma come fa un prefetto a ribellarsi? Cioè, il prefetto è un dipendente del Ministero dell'Interno. Vi immaginate che il prefetto, che ne so, di Milano si sveglia e dice: basta, non mi ribello al mio ministro. E non lo so, per carità, sembra un po' uno slogan, ma vedremo. Comunque, Chiara è la voce più sexy del sistema planetario, e questo ha sentenziato un messaggio anonimo di un ascoltatore, mentre Giorgio da Roma ci dice: fai cantare a Chiara Gironi Ho visto un re. Ti può andare? No, è troppo difficile. Ma che troppo? Vabbè, ma allora sono tutte difficili. Ma allora non è vero, c'hai illuso. Dio, cara Chiara, c'hai illuso. Vabbè, sentite qua Maroni è il governatore della Lombardia sulla questione migranti. È una situazione ingestibile da parte nostra, da qui la nostra reazione. Bisogna cambiare metodo. Caro Renzi, bisogna cambiare metodo. Permane, per quanto mi riguarda, per quanto ci riguarda, la linea che ho indicato, e cioè non siamo disponibili ad accogliere nuovi immigrati perché siamo al completo. Vabbè, insomma, questa è la linea della Lega, siamo al completo, niente nuovi immigrati. Vabbè, questa è la linea della Lega da almeno un ventennio, diciamo, quindi non è una novità, purtroppo. Adesso però è un po' aumentata in vista di questa emergenza. Allora, io devo andare a dare le informazioni sul traffico, poi sentiremo il sindaco di Chiara Geroni, perché non sei di Carrara, cioè tu stai a Roma, e quindi Ignazio Marino, che continua avanti, tira dritto. Poi vi devo far sentire anche O Comandante. Ah, O Comandante. Ma Maurizio, tu sai O Comandante, chi è O Comandante, lo sai? Insomma, che è uscito con un libro ieri su Libero, c'era questo sondaggio online: voi vi fareste autografare il libro da Francesco Schettino? Il che presuppone che uno lo debba comprare. Vabbè, dai, traffico a Milan, io voglio sentire il traffico 24 mattino. Milan, a proposito di Roma, sai chi è stato l'unico sindaco a dimettersi? Il professor Giulio Carlo Argan. E sai la motivazione che scrisse nella sua lettera? La motivazione fu questa anche, che i romani sono zozzoni. Ciao Milan, volevo farvi una domanda, ma avete notizie dei nostri marò? Roma è divisa in municipi. La colpa è dei presidenti dei municipi se Roma è sporca, non solo del sindaco. Io abito a Roma da tanti anni e vedo che il mio presidente del mio municipio, il secondo, non fa niente. Marino, forza! Dio mio, quanto sono triste! L'Italia Under 21 non andrà agli europei e nemmeno alle Olimpiadi! Per colpa? Per colpa di un biscotto! Non importa se l'Italia ha perso con la Svezia, non importa se l'Italia ha pareggiato con il Portogallo, ma la colpa è solo di un biscotto, maledetto! Vabbè, c'è qualcuno che ha seguito l'Under 21 di calcio, mi sembra di aver capito, no? Qualche matto. Questa è la nostra segreteria telefonica, 0246524492. Potete chiamare e dire quello che volete. Noi lo mandiamo in onda, forse prima vediamo un po'. Allora, Ignazio Marino, come detto, ma Marino va avanti. Ieri c'è stata la candidatura a Roma alle Olimpiadi 2024, ha ottenuto il sì, e quindi ha chiesto anche scusa per quella frase sulla destra torni nelle fogne. Insomma, Ignazio Marino non demorde, sentiamolo un po'. Un'intenzione comune di sostenere ognuno nel proprio ruolo come espressione di un partito la candidatura di Roma per le Olimpiadi e le Paralimpiadi del 2024. Lavorando per questa candidatura prepariamo un traguardo per la città, non per le pur legittime ambizioni di ciascuno. Devo dire che fa un certo effetto, Chiara. C'è tutto quello che gli succede a fianco. Lui ieri a Repubblica ha detto: non mi spostate neanche coi cannoni, perché non si può far decadere il sindaco, cadono gli assessori e noi li rimpiazzeremo. E lui va avanti, Olimpiadi, fa bene Chiara? Voglio dire, si difende, è legittimo e devo dire che insomma qualche argomento ce l'ha, perché l'atteggiamento del PD non è proprio linearissimo nei confronti di Marino, cioè non si capisce perché un sindaco eletto deve essere delegittimato da un partito che fra l'altro, diciamo, più che aiutarlo gli ha creato dei problemi. Ieri un ascoltatore ci lanciava questa provocazione: ha due pecche Marino che deve scontare. Uno è una persona onesta, e su questo vabbè era il giudizio dell'ascoltatore, e l'altro è stato votato. Queste due cose in Italia sono abbastanza votato, insopportabili da ultimamente, da come dire, no? Detto Maurizio, questo però io vorrei dire, se posso, scusate, sì. Finire, è vero anche che non riesco molto a capire quale sia la strategia di Marino in questa difficilissima situazione, perché mettersi da solo contro tutti mi sembra che possa essere un po' di corto respiro. Ho capito, ma ce l'ha un po' ormai tutti contro, ma non so quanto possa servire a... Questo è vero. Sei imbrigliato in queste cose, come fa a governare una città così importante come grande come Roma? Sarebbe bello che lui e Renzi si mettessero in una stanza, si guardassero negli occhi e trovassero una soluzione. Sì, certo, ma la soluzione Renzi ce l'ha. Anche oggi sui giornali dice la linea di Renzi è: no, il se non è più in discussione, bisogna capire solo il come lo mandiamo via. Quindi lo spiegare, e quell'altro dice: manco coi cannoni. Non è che basta dirlo ai giornalisti che lo manda via, bisogna che ci riesca, chiaro, altrimenti. Bene, Maurizio, a te che ti pare da Milano, ma comunque da osservatore? Guarda. Allora, intanto Marino Renzi avrebbe voluto mandarlo via prima del dicembre scorso ed è stato fregato, cioè bloccato, quello che vuoi, soltanto dallo scoppio di Roma, di Mafia Capitale, perché era chiaro all'epoca che l'incapacità governativa della giunta di Marino era totale fin dall'epoca. Non mi ricordo più che l'ha scritto, ma secondo me è un genio. Marino è come l'ispettore Clouseau, e Renzi è come il capo della polizia nei famosi film della Pantera Rosa. Questa è la situazione. E i cittadini non ridono come gli spettatori. I cittadini non ridono e fanno bene a non ridere. Se fossi un romano sarei incazzato, anche perché abbiamo visto come è ridotta Roma, indipendentemente dalla cosa giudiziario di Mafia Capitale. Io più vado avanti e più penso che, malgrado il giubileo, malgrado l'idea delle Olimpiadi, Roma andrebbe commissariata. Anche per la questione finanziaria e di bilancio. Ieri l'agenzia Fitch ha detto che rischia un altro. È una città ingovernabile, ingovernata. E ho capito, un commissario che può fare? Cioè, perché questa è la questione. È ingovernabile, invece un commissario sì. Alternativamente elezioni, ma è un commissario a poteri particolari e speciali. Quello è vero, però chissà se arriva al prossimo sindaco, che fa? Ma insomma succede. No, è chiaro. Allora, vi devo far sentire Schettino. Prima però l'ascoltatore diceva dei Marò, e oggi i giornali raccontano, lo sentiremo in rassegna stampa, c'è una svolta che poi non è una svolta, e cioè che l'India prende ancora tempo. Ma dai, sulla questione dei Marò, ma dai, sono 3 anni e vabbè, però dopo lo leggeremo in rassegna stampa. Ma vi voglio far ascoltare lui, o comandante, colui che ha scritto Le verità sommerse, con dedica alle vittime, Francesco Schettino. Sentite un po', Schettino. Questo libro ha suscitato interesse da parte di persone illustri per quello che riguarda lo shipping. La curiosità del libro è stata tanta e ha trovato riscontro anche in quello che erano le loro perplessità. Lo shipping. Lo shipping. Chiara Geloni, tu questi illustri, queste persone in coda. No, vabbè, dai, sentiamo ancora Schettino.

Comunque l'appello l'abbiamo fatto, siamo al momento della carta costa. È il momento dell'articolo più inutile scovato sui giornali, un'intera pagina oggi del Corriere della Sera, una intera dedicata alle mance, il dramma del tipping in America, le mance. Quanto si paga di mancia? Dove si paga? Quant'è la percentuale? Come? Quando? In Giappone, in America, in Francia? Qual è l'usanza delle mance? Ma chi se ne frega? Il segnale orario vi è offerto da... Proteggi la tua casa. Index isola, impermeabilizza e risana in più di 100 paesi nel mondo. Indexpa.it. Ladies and gentlemen, and now, Alessandro Milan. Che devozzino via fuoco. Milan, il cagnasso randaggio dell'informazione. Se fossi tua moglie, quante botte ti darei? Quando parli, sembri laureato in tuttologia, sai tutto tu. Cari ascoltatori, eccoci qua, ben ritrovati da Alessandro Milan. Sono le 8 e 20 minuti a 24 mattino e l'Europa, guarda un po', ancora una volta è spaccata sulla gestione comune dell'immigrazione. Ieri c'è stato il vertice dei capi di governo per gestire questo tema e raccontano i giornali che Renzi si è infuriato tantissimo, avrebbe battuto i pugni soprattutto nei confronti dei paesi dell'est quando ha capito che non vuole l'Europa o parte dell'Europa ripartire i 40.000 immigrati secondo quello che è il piano. Ha detto Renzi: se non siete d'accordo non siete degni di chiamarvi Europa, e se questa è la vostra idea dell'Europa fate pure, tenetevela. Questo almeno raccontano i giornali. Quindi Renzi litiga in Europa con qualcuno, questiona anche in Italia, soprattutto con quei governatori del nord, della Lega, Maroni in Lombardia, Zaia del Veneto, ma anche Totti della Liguria, che non vogliono più migranti nelle loro regioni. Noi abbiamo con noi Luca Zaia, presidente e governatore del Veneto. Buongiorno, riconfermato e bentrovato Zaia. Buongiorno e grazie per l'ospitalità. A lei, allora, lei Zaia ha detto addirittura i prefetti si ribellino, ma questo appare proprio uno slogan, cioè lei se lo vede un prefetto che contravviene a un ordine del Viminale, che dovrebbe fare un prefetto per ribellarsi? No, guardi, io ho detto anche di più, ho detto i prefetti non rispondano più neanche al telefono, visto e considerato che quando andavamo a scuola ci spiegavano che Rousseau nel contratto sociale diceva che il popolo ti elegge per rappresentarlo. La dico così maccheronicamente. Ma il prefetto eletto dal popolo, però. Appunto, ma il prefetto comunque è nominato da un governo che comunque è eletto dal popolo, e questo popolo in regione del Veneto, una persona su due, e comunque la quasi totalità dei comuni eletti direttamente dal popolo. Ricordo che in Veneto su 579 comuni solo 5 hanno dato disponibilità a ospitare immigrati, ecco, quindi vuol dire che il contratto sociale c'è e i prefetti tengano presente che il popolo veneto non vuole più migranti. Cosa dovrebbero fare però concretamente? Non rispondere al telefono, ce l'ha già detto, oppure se chiamano dal ministero e rispondo e dico: guardate, vi mandiamo 100 migranti, che fanno? Dovrebbero bloccare i pullman? Cioè, mi faccia capire. Ma guardi, io direi che sarebbe sufficiente vedere con chiarezza i dati. Noi siamo una delle 3 regioni in Italia con più migranti, ne abbiamo 517.000, e quindi la nostra parte l'abbiamo fatta aiutando i profughi albanesi, i profughi che venivano dall'Europa dell'Est, che oggi si sono integrati. Però è altrettanto vero che di questi 517.000, in questo momento 42.000 sono senza lavoro. Però mi chiedo con quale serietà si possono illudere persone che arrivano dall'Africa facendo credere a loro che qui trovano l'Eldorado. Non è così, e per questo motivo anche ieri ho detto a Renzi: investiamo sul fatto che bisogna aiutarli a casa loro, quindi fare i centri di prima accoglienza e di aiuto direttamente lì in Africa. Aiutarli lì. Tra poco ci arriviamo all'incontro con Renzi, però sulla cosa dei prefetti, mi scusi, insisto, cioè un prefetto che non risponde al Viminale viene sostituito subito, voglio dire, viene fatto decadere. Ma non è, scusi Milan, non è proprio così, anche perché in Veneto abbiamo avuto già degli esempi di prefetti che hanno detto anche sui media, quindi pubblicamente: qui non c'è più posto, perché poi la verità è questa, qui non c'è più posto, alla luce anche del fatto che siamo chiamati a ospitare dei migranti, faccio notare che non li chiamo profughi, dove su 3 migranti, due non sono profughi, uno probabilmente lo sarà. il che vuol dire che siamo chiamati anche a fare un atto di solidarietà due volte su tre nei confronti di persone che non hanno diritto e bisogno di solidarietà. Allora, avete visto Renzi, non solo lei, vi ha convinto su qualcosa, almeno un punto sul quale vi ha convinto, oppure proprio buio totale, Zaia? Beh, intanto prendiamo atto che il Presidente del Consiglio sta affrontando finalmente il problema. È un problema che deve essere risolto, a mio avviso, sul fronte africano, quindi con l'aiuto in loco e affondando i barconi ormeggiati sulle coste della Libia, e sul fronte europeo chiedendo all'Europa che faccia la sua parte. Ovvio è che ieri, ma io l'ho detto anche al Presidente del Consiglio ieri, di sostanziali novità non ce n'erano sul tavolo, c'era solo questa informazione che ci sarebbe stato il vertice europeo. Abbiamo visto gli esiti del vertice e direi che la dice lui. Sono divisi, però Renzi ha fatto, ma tra poco ci arriviamo anche a questo, affondare i barconi, però le dice, cioè vorrebbe proprio, ma chi dovrebbe intervenire militarmente? Ovviamente i barconi vuoti, voglio immaginare, no? Cioè, prima che partano. No, è escluso, stiamo parlando di operazioni fatte in sicurezza, di bombardamenti, affondamenti chirurgici, e mettendo assolutamente in sicurezza le vite umane. E chi lo dovrebbe fare? L'ONU, la NATO, l'Italia? Ma io penso che la comunità internazionale, che quella spavalda comunità internazionale che comunque ha avallato i raid in Libia e durante anche tutto il fenomeno della primavera araba, dovrebbe prendere in mano la situazione. Noi siamo davanti a un esodo che è un esodo biblico, a un esodo che interessa per un terzo, dei dati che abbiamo, persone che veramente scappano dalla morte e dalla fame. E dall'altro due terzi che sono migranti economici che hanno trovato il bel sistema di arrivare in Italia senza documenti e utilizzando un vettore che costa anche poco. Allora io direi è fondamentale che la comunità internazionale prenda in mano questa situazione. Voglio ricordare che l'anno scorso erano 170.000 gli sbarcati, quest'anno saranno probabilmente 200.000 e di qui vuol dire che ogni 5 anni avremo, se questo è il trend, 1 milione di persone che arriveranno in Italia. Allora, Renzi in Europa, non so se ha letto i giornali, ma insomma, avrebbe tenuto questo atteggiamento molto duro, tenetevi questa Europa, almeno su questo sarà d'accordo, oppure lei non crede che Renzi faccia così la faccia dura? Benvenuto a Renzi che arriva sulle nostre posizioni, però è lo stesso Renzi che il 13 gennaio del 2015, cioè qualche mese fa, chiudeva la presidenza del semestre europeo. Voglio ricordare che il Presidente del Consiglio italiano è stato presidente del semestre europeo e quindi parla sostanzialmente di un'Europa che ha presieduto fino a qualche mese fa. Quando questa emergenza ancora non c'era in questi numeri, però dici forse no, si poteva prevedere. Questo, mi perdoni, questo non è vero, perché noi, il governo Berlusconi, 62.000 profughi, siamo nel 2011. Nel 2012 ne abbiamo 13.000, nel 2013 ne abbiamo 43.000, nel 2014 presidenza italiana in Europa, fra l'altro una fase finale, 170.000, nel 2015 chiuderemo con 200.000, il che vuol dire che Renzi ha presieduto gli ultimi 6 mesi del 2014 che è stato l'anno peggiore per l'arrivo dei profughi perché ne abbiamo avuti 170.000. Quindi secondo lei cosa dovrebbe fare di concreto Renzi in Europa? Cioè cosa dovrebbe dire oltre magari a fare la faccia feroce, a dire non ci state aiutando, non è questa roba che vogliamo? Si sta a battere i pugni, però poi bisogna passare anche a fatti concreti, la minaccia deve essere molto più tonica, visto considerato che anche la proposta europea, per carità, uno potrebbe dire è un punto d'inizio, non basta ma aiuta, però 40.000 che immagino siano rifugiati e non immigrati indifferenziati, 40.000 che avranno già avuto riconoscimento di rifugiato in 2 anni, se questi sono i dati saranno confermati, vuol dire che sostanzialmente noi in 2 anni avremo con questo trend circa 400.000 arrivi in Italia. Questi se ne portano via 40.000, vuol dire il 10% degli arrivi. È ridicola questa soluzione. Però qualcosa di concreto da proporre all'Europa cosa sarebbe? Cioè, se fosse lei in Renzi, ecco. Beh, guardi, io penso che l'Italia rappresenti ancora in Europa, a parte il fatto che siamo uno Stato fondatore, le parlo anche dall'esperienza che ho fatto in Consiglio dei Ministri in Europa, dico che in Europa comunque bisogna anche mettersi di traverso, cioè non è che possiamo sempre pensare di risolvere le questioni con le pacche sulle spalle e con i sorrisi. Che vuol dire che sforiamo il patto di stabilità? Ci sono tanti elementi, ci sono anche le partite dei trasferimenti europei, ci sono delle partite che interessano anche altri Stati membri, vorrei ricordare che tutti gli Stati membri hanno dei dossier importanti ai quali tengono e mettersi di traverso vuol dire bloccare anche i dossier degli altri Stati membri. Non dimentichiamoci che stiamo parlando di un'Europa che ha almeno 10 Stati membri che hanno sostanzialmente chiuso le frontiere. Sì, politiche di pressione, insomma, su queste cose. Senta, Zaia, le devo far sentire un audio del neo sindaco di Venezia, Brugnaro, che quando abbiamo avuto questi microfoni ha fatto un discorso interessante sulla destra e la sinistra. Dice, ma non c'è più destra e sinistra. E Brugnaro dice, a me piace Zaia e a me piace Renzi, che apparentemente potrebbe sembrare una contraddizione. Però sentiamo Brugnaro. Io stimo molto il Premier per il coraggio che ha avuto, come stimo Luca Zaia, che è il nostro Presidente della Regione, altra persona che sa fare le cose, lavora, ci mettono tutti e due molto la faccia e la loro vita. Quindi come vedete Renzi del PD e Zaia della Lega, ecco, questo per dire che lei guarda le persone, non le appartenenze. Certo. Insomma, cosa vuol dire, dice Brugnaro, ma è la nuova politica 2.0 questa, Zaia? Ma sarà anche 3 o 4 o 5.0. Ma io penso, guardi, mi permetta di parlare di questo aspetto. Io penso che la politica del futuro sia sostanzialmente basata sulle leadership. Penso anche che il Presidente del Consiglio l'abbia dimostrato dal canto suo, da segretario di un partito di sinistra che comunque ha parlato, almeno nella fase iniziale della sua azione di governo, a molto elettorato moderato. E cito anche l'esempio del mio segretario della Lega, Salvini, che ha dimostrato che con la sua leadership ha comunque saputo aggregare dei comparti di elettorato, dei cittadini che altrimenti comunque non avrebbero votato. Sì, però fa un po' specie di sentir dire mi piace Renzi e mi piace Zaia, ecco. Si può fare per Brugnaro. Guardi, Brugnaro è una persona che stimo oltre ad essere un amico, e io che lo conosco so cosa intendeva dire, cioè lui è una persona che si presenta politicamente e si dichiara prestato alla politica, e penso che lui riuscirà a fare un grande lavoro da sindaco di Venezia, e sono assolutamente certo che anche questa sua imparzialità e oggettività nell'approcciarsi comunque darà un grande risultato a Venezia. A questo proposito di sindaci, ma si è più sentito con Tosi dopo quello che è successo, la frattura con la Lega, poi Tosi si è candidato, ha rischiato, secondo qualcuno diceva rischiava di farvi perdere la regione, poi non è stato così, si è più sentito con Tosi, si sente? No, mi è capitato di incrociarlo ad alcune riunioni, cioè per noi il rapporto personale umano assolutamente non cambia, quello politico ovviamente ci vede su strade diametralmente. Ma secondo lei è pentito, cioè ha sbagliato, si è un po' ridotto ai margini del... Guardi, non ne so nulla di questa partita, peraltro me lo sta chiedendo in un giorno importante per me, perché oggi alle 14.30 si insedia il mio consiglio regionale, quindi inizia questa avventura. E quindi lo vedrà, insomma, lo vedrà visto che... No, non è in consiglio regionale. Ah, non è in consiglio regionale, vero? No, lui non sede. No, però ci sono alcuni eletti dagli statosi. Certo. Ho capito. Vabbè, ma no, secondo lei avrà parlato a dire... O avrà la sensazione di dire Tosi ha sbagliato qualcosa? Cioè, si è pentito di essere uscito dalla Lega? No. Guardi, io penso che a queste domande la risposta la può trovare semplicemente intervistando Tosi. L'ultima domanda è questa: a livello nazionale la Lega deve correre da sola o deve riunificarsi con Silvio Berlusconi? Guardi, io penso, al di là del fatto che le confermo che l'alleanza di centrodestra che abbiamo in Veneto è un'alleanza che tiene, abbiamo governato questi ultimi 5 anni e la confermiamo proprio a partire da oggi, penso che la Lega si debba alleare, o meglio debba condividere un percorso di viaggio con tutti coloro i quali condivideranno le nostre progettualità. Le progettualità sono chiare, non c'è pericolo di fare confusione, per cui chi condivide la nostra politica sull'immigrazione, la politica economica, il tema dell'Europa, quant'altro, sa benissimo che le porte troverà sempre aperte. Porte aperte. Intanto la ringrazio, Luca Zaia. Grazie a lei, buon lavoro. Governatore del Veneto, altrettanto ovviamente, visto che si insedia il Consiglio regionale, è neo governatore, quindi no, ma confermato il secondo mandato. Luca Zaia, governatore del Veneto. Sono le 8:33 minuti. Il numero per intervenire in diretta è 800 24 00 24. Non lo dico, ma è abbastanza. Ma se volete, cari ascoltatori, sia sul tema migranti, sia sul tema che affronteremo tra poco o su cui torneremo, e cioè quando abbiamo parlato la scorsa settimana di migliaia di immobili del comune di Roma che sono affittati a prezzi stracciati, no di più, 7,75 euro. Mi ha scoperto che 7.000, lo ha scoperto un cittadino di Roma che ha fatto un'indagine nel database, si è messo lì a spulciare immobile per immobile, ha scoperto che 7.000 case comunali di Roma sono affittate a 7,75 euro al mese. Una cosa incredibile. Molte case a 100 euro, 50 euro, 200 euro. Solo 16 case, 16 immobili su 24.000 sono affittati a più di 1.000 euro al mese. 16 su 24.000. E avremo l'assessore Alessandra Cattoi, assessore al patrimonio del Comune di Roma. Se volete intervenire su questo tema o sul tema migranti, 800 24 0024, tra pochissimo. Siamo qui, sono le 8:37, allora 800 24 0024, se volete intervenire in diretta. Vorrei dare la parola a Marcello da Genova. Marcello, buongiorno. Buongiorno. Dica. Spero che mi senta, perché sono, mi sono fermato ogni fianco alla strada. La sentiamo benissimo. Allora, premetto che dal mio parere non è possibile fermare un'emigrazione anche economica, sì, perché da sì. Che mondo è mondo i migranti economici ci sono esistiti. Infatti. Esatto. Un'emigrazione di chi scappa dalla guerra, su questo non ci vuole, va bene, non ci sono problemi. Sì. Io volevo sapere perché il presidente Luca Zaia sì. non ha posto il punto che Renzi si è finalmente avvicinato alle loro posizioni sì. della Lega. Sì, sì. Però non ha posto il punto che la Lega, il ministro all'epoca, ministro Maroni, sì. aveva approvato il regolamento di Dublino 3. Ah, ecco, di Dublino. Senza arrivare a quello. Esatto, esatto. Sì, no, Marcello, perché non risponde a, perché non dice queste cose? Ma adesso, io l'ho visto zittire la questione del trattato sindaco, di Dublino. No, il ma sindaco Marcello, di Firenze. Lei pone un aspetto, no, ma se hai capito, cioè pone un aspetto fondamentale, cioè il trattato di Dublino, quello per cui le persone che arrivano nello Stato e fanno la richiesta di profugo devono rimanere in quello Stato fino a quando questa richiesta non viene esaudita e quindi o respinta oppure accolta. Questo trattato di Dublino, unito al fatto che in Italia queste richieste pendono per anni, in alcuni casi con ricorsi contro ricorsi, rende la procedura molto farraginosa, e per cui si dice avete firmato questo trattato di Dublino e adesso ci siamo un po' messi le manette con questo trattato di Dublino. È vero, è vero. Purtroppo la politica spesso non risponde degli errori del passato, no? O meglio, si rifà una verginità e si va avanti così. Marcello, la ringrazio. Intanto noi dobbiamo parlare, come detto, del tema che avevamo già affrontato la scorsa settimana quando avevamo ospitato il signor Cuccari, Giampaolo Cuccari, che è un privato cittadino di Roma, il quale ha fatto quello che poteva fare chiunque, ma lui l'ha fatto, è andato a controllare uno per uno gli immobili, i 24.600 immobili che erano disponibili come trasparenza ai cittadini del Comune di Roma, per vedere a quanto vengono affittati. Ha scoperto delle cose incredibili, con affitti per 7.000 immobili di 7,75 euro al mese, alcuni immobili a 100 euro, altri a 50. Insomma, il Comune di Roma da anni, questo è un problema, gestisce il proprio patrimonio immobiliare, direi, in maniera non efficiente, per usare un eufemismo. Voglio girare queste considerazioni. Abbiamo invitato, e la ringrazio di essere con noi, l'assessore al patrimonio del Comune di Roma, Alessandra Cattoi. Buongiorno assessore, benvenuta e ben ritrovata. Buongiorno, buongiorno. Allora, ovviamente i cittadini abbiamo fatto questa trasmissione, la gente saltava sulle sedie, io li vedevo, mentre, anche se in radio non si vedono, mentre raccontavamo questa cosa. Come diamine è possibile una cosa del genere? Ma guardate, in realtà non c'è proprio da saltare da nessuna parte, perché i 7.000 appartamenti di cui parla il cittadino, come giustamente avete sottolineato, non ha fatto altro che mettersi sul sito del Comune di Roma e vedere quello che il Comune ha pubblicato in modo assolutamente trasparente. Non sono le case che vengono date agli amici, ai parenti e ai nipoti, sono le case, le cosiddette case popolari, che ogni comune ha. Per sì. fortuna, cioè sono sì, case certo. che non vengono date a chiunque, a me non viene data una casa popolare, probabilmente neanche a lei, vengono date a persone che hanno gravissimi problemi economici Vi faccio un esempio, la famiglia tipica che abita in una casa popolare è una donna sola o che ha perso il marito o che ha divorziato, che ha dei figli a carico e che non ha lavoro. E secondo voi, questa famiglia, finisco il ragionamento, secondo voi una donna che ha due figli può darsi anche nei casi più sfortunati uno è disabile e non lavora, secondo voi questa famiglia può pagarsi un affitto o il comune si deve fare carico della loro installazione alloggiativa? È una domanda legittima. Assolutamente così, infatti noi affittiamo le case a 7 euro perché quella famiglia non se ne può permettere di più. Però di su queste 24.000 case ce ne sono. Sergio Rizzo e Gianantonio Stella hanno fatto anche un'inchiesta, l'avrà letta anche lei sul Corriere della Sera, partendo da questi dati. Su 24.000 case ne ha scoperte solo 16 per i quali si paga affitti da 1.000 euro. Cioè ci saranno anche c'è anche un caso di un bar, racconto di un bar Stella e Rizzo che paga 50 euro al mese d'affitto, un esercizio commerciale. Cioè ci saranno. È tutt'altro discorso. Allora, noi abbiamo i 24.000 appartamenti che, come dicevo, sono le case popolari e su questo io sinceramente rivendico il fatto che abbiano affitti bassi e penso che sia sacrosanto e giusto e sono contenta che il Comune di Roma possa dare le case a questi affitti a persone che ne hanno bisogno. Poi ci sono delle altre case che non sono le case popolari e che sono 500, quindi 24.000 case popolari e 500 case non popolari. Qui concordo assolutamente, c'è un problema enorme che è stato evidenziato e che è in via di risoluzione, cioè cosa abbiamo detto? Queste case il Comune di Roma effettivamente non ce la fa a gestirle come dovrebbe, ha un limite e quindi cosa abbiamo detto? Visto che non ci servono perché sono bar, negozi, allora cosa decidiamo di fare? Decidiamo di venderle in questo modo. È vero che forse io mi arrendo. No, lei ce l'aveva proposto proprio qui dicendo ad assessore venderemo, quando verrà fatto e quanto pensate di guadagnare? Sono in vendita, guardate, l'asta sarà pubblicata la prossima settimana, no, però ve lo segnalerò se sarà il 2 o il 3 luglio, la prima asta del Comune di Roma sarà pubblica. Nel frattempo cosa abbiamo fatto e perché non è partita prima, ma questo l'avevamo detto e mi fa piacere poterlo ridire, abbiamo richiesto indietro la famosa morosità. Molto spesso questi bar che hanno l'affitto a 50 euro neanche li pagavano i 50 euro e quindi abbiamo preso 2 mesi di tempo perché l'amministrazione comunque sono lente e abbiamo chiesto a tutti quelli che occupano questi 500 alloggi o appartamenti o negozi che sono di proprietà del Comune di Roma, caro amico, o mi sani tutto quello che tu hai fatto fino adesso, oppure due strade, ti faccio causa, ti sgombero, oppure puoi partecipare se vuoi. Quindi queste comunque sono solo 500 case, sono solo 500, cioè lei non vede invece nelle altre, ma ad esempio quelli dei 7,75 euro, sì è vero che è un adeguamento, è una legge regionale, anche... Però è un po' poco, voglio dire. Adesso io ma non lo penso io, se la legge determinati redditi e situazioni familiari fissa delle fasce che vanno da 7 euro a 120 euro di più, io non lo posso fare. Però gli immobili di proprietà del comune sono molti di più. Perché si conosce solo di 24.000 e rotti l'affitto invece di altri no? Così almeno leggiamo. No, guardate, anche questo non è corretto. A me spiace dirlo perché il Corriere della Sera ha riportato delle inesattezze. 24.000 sono gli appartamenti, il resto, e sono altri 18.000 se non mi sbaglio, non sono appartamenti, sono le cosiddette, in termine tecnico si chiamano le pertinenze, e cioè sono le cantine, le soffitte, i box, le strade di accesso agli appartamenti, quelli non hanno affitto, sono compresi e quindi, però noi le registriamo, le mettiamo sul sito del Comune di Roma perché per noi fanno parte del patrimonio, quindi è chiaro, la lettura non è semplicissima, ma vi assicuro che non c'è niente di nascosto, sono queste. Poi c'è una parte che non riguarda appartamenti e che è tantissimo, sono altrettanti 30.000 beni, che riguardano invece palazzi storici, monumenti, strade, pompe di benzina, insomma tutto un patrimonio enorme che non sono appartamenti. Quindi insomma lei, assessore, dicendoci che il primo, il 2 o il 3 luglio ci sarà l'asta per questi 500, diciamo possiamo secondo il suo parere circoscrivere a 500 immobili quelli in cui si può vedere qualcosa, se c'è qualcosa da indagare, qualcosa. Beh, diciamo di più chiaro, che questo è più o meno la quota su cui effettivamente c'era un enorme lavoro di rimessa a posto. Sul resto io non voglio dire che il Comune di Roma, il patrimonio del Comune di Roma sia organizzato bene, questo non me la sento di dirlo nonostante io ne sia alla guida, però il lavoro che è in corso sta cercando pezzetto per pezzetto di risistemarlo. È una strada che prenderà moltissimo tempo, vi assicuro, 60.000 beni da prendere in mano uno per uno. Insomma, beh, non è facile. resta da capire qui la domanda, diciamo, politica, perché è sotto gli occhi di tutti quello che sta succedendo, il conflitto politico magari un po' sotto traccia o sui giornali invece spiattellato, quanto avrete margine di fare questo tipo di lavoro, perché assessore Cattoia, ancora oggi sui giornali si legge che Renzi ne discute del sindaco con i termini non è più questione di se ma di quando dovrà lasciare. Voi sinceramente lavorate in serenità con questa pressione politica in giunta? Beh, la serenità l'abbiamo persa alcuni mesi fa, quando è scoppiata l'inchiesta che ci ha messo davanti a una situazione che era un po' nell'aria ma non colta nei suoi tratti più specifici. E devo dire che per il resto noi continuiamo a lavorare. Il conflitto non è un conflitto per quanto ci riguarda, è un dibattito molto mediatico, noi non abbiamo sensazione di conflitto, abbiamo riunioni con il governo ogni giorno su temi che non riguardano che riguardano il futuro, la città. Ieri abbiamo lavorato sulla candidatura alle Olimpiadi, dopodiché è chiaro che Roma deve avere il governo al suo fianco per andare avanti. Ogni grande città deve andare avanti con un governo che la sostiene. Quindi sentite, è più una questione mediatica, eppure sembra che Renzi non passi giorno, ma non pubblicamente, a dire ai suoi è una questione di tempo, ma Marino... Ma io penso che il Presidente del Consiglio ha grandissimi dossier di cui occuparsi in questo momento. Roma non credo che sia nei primi posti dei suoi pensieri. Va bene. In ogni caso, da parte nostra non c'è nessun conflitto. Intanto io la ringrazio per essere stata con noi, Alessandra Cattoia, voglio ricordare, è l'assessora al patrimonio del Comune di Roma. Buona giornata, ovviamente, è il momento, tra l'altro buona giornata a Roma, so che c'è lo sciopero dei mezzi, sarà un mezzo inferno oggi a Roma, immagino, comunque è il momento del traffico. Allora, le 8:51 minuti, siamo qui, vorrei sentire Urbano da Roma. Urbano, buongiorno. Volevo solo dire questo, perché l'assessore al patrimonio appena insediata non ha dato disdetto a tutti gli affitti? Ma perché ci ha spiegato... Li valuterà singolarmente alle scadenze. Ma ci ha spiegato che in realtà quelli 7,75 euro sono comunali, e per le tariffe, per chi non può pagare. Sì, ho capito, su 42.000 ci saranno alcuni da adeguare, se non si danno le disdette non si adegueranno mai. Quei 500, beh, dice che stanno facendo una procedura. Perché non dà la disdetta a tutti? A tutti. Alla scadenza li rivaluta tutti. Li guarda, se è diritto a 7,75 sarà dato anche gratis. Se la moglie abbandonata con i figli in abito. Cioè, fare una revisione, capire. Arrivo e voglio capire, disdico tutti e poi vediamo chi ha diritto. Ma chi ha diritto, io lo confermo. Però è un lavoraccio, insomma, in teoria una buona amministrazione. Però Urbano, una buona amministrazione dovrebbe in automatico fare in modo che i controlli siano periodici per capire se tu hai bisogno e hai diritto. Ma non li fa nessuno! E allora dare disdetta a tutti! Quindi la soluzione è questa: se non ci sono i controlli, resettiamo. Uso un verbo. Diamo solo disdetta, noi gli sbattiamo via, diamo disdetta. Valutiamo singolarmente le scadenza. Va bene, sentirei, grazie Urbano, sentirei Vincenzo da Roma. Vincenzo, buongiorno. Buongiorno a lei. Senta, no, io stavo sentendo l'assessore, mi sono reso conto, sono preoccupato perché evidentemente l'assessore non conosce assolutamente la realtà umana, e le dico per quale motivo, relazione alle case popolari. Io ho vissuto per 20 anni, fino a quando mi sono sposato, a San Basilio, che è un quartiere di periferia romana, totalmente case popolari. E chi ha poi visto? Ha vissuto mia madre per molti anni. Le faccio questa premessa per dirle che conosco bene la realtà delle case popolari. E chi ha visto? E sono, è totalmente falso. Quelle case sono quasi tutte occupate ormai da figli di persone che a suo tempo avevano occupato le case popolari, forse con quelle condizioni che diceva l'assessore. Certo, e ma oggi adesso condizioni che sono finite. Quindi lei un po' dice che Urbano andrebbe resettato tutto e vedere uno per uno se hanno diritto. Guardi, ancora. Totalmente, le persone che occupano le case popolari nel 90% sono persone che hanno redditi, che poi loro non dichiarino, questo ovviamente non entro nel merito e non lo posso sapere, ma oggettivamente sicuramente sono redditi molto elevati, e non ha assolutamente il discorso che ha fatto l'assessore della signora con i due bambini, dice sono casi rari, e questo è un po' il discorso di vedere, di resettare tutto. Sentiamo anche Rosalia da Firenze, se ci sta in un minuto gentilmente. Rosalia, buongiorno. L'esattezza. Sì. Pronto? No, sì, dica. Voglio precisare una cosa. Sono 30 anni che combatto il condominio delle case popolari, un condominio fittizio, senza ascensore, senza riscaldamento, perché ce l'abbiamo singolo, che ci fanno pagare, ora attualmente si paga 60 euro al mese, ma 3 mesi anticipati per via della policy, che abbiamo una policy che gestisce tutto il patrimonio delle case popolari, va bene? Allora, il problema è questo. Hanno aumentato di 30 euro a botta, dopo dall'86 l'hanno aumentato 30 euro alle carte, agli affitti minimi. Vabbè, l'hanno aumentata, quindi aspetti, a me mi sta bene pagare i 30 euro in più, visto che pagavo 12 euro, quasi 13 euro e qualcosa. Vabbè. Però non mi sta bene 60 euro, tre mesi anticipati. Rosalia, capisco, non entriamo nei conti, comunque non le sta bene, insomma, che siano stati dati questi aumenti. Dai, finiamo qui, fermiamoci qui. Vi ricordo che non la mandiamo oggi, ma c'è la segreteria telefonica 0246524492 se volete lasciare il vostro messaggio. Io ringrazio tutti, da Lorenzo Nespoli, Alessandro Longoni, Elisabetta Fusconi, Peter Bescapè in regia, Valerio Rocchetti oggi in regia. Siamo una tribù, è venerdì e concludiamo. Attaccare! Così, dai! Attaccare!